Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, tempo di maturità, tra qualche giorno le prime prove scritte, l'occasione per parlare di una piattaforma che aiuta gli studenti in difficoltà e promette di rivoluzionare il mercato delle ripetizioni private con il live tutoring. Il mondo digitale sta cambiando le nostre abitudini di consumo e di vita, lo raccontiamo spesso, qualche volta però c'è bisogno di una vera e propria digital detox, una disintossicazione, una dieta digitale, dalle vacanze ai locali tech free fino alle app che impongono la disconnessione. E poi oggi parleremo anche delle aziende italiane che fanno marcia indietro e riportano la produzione in Italia. È tempo di reshoring. Focus sui trend dedicato invece ai segreti del successo dei brand intergenerazionali, quelli che superano, che abbattono le barriere delle generazioni. La cosa più importante degli esami di maturità sono le fotocopie. Cartucciera professionale in dotazione Marines dell'esercito americano contenente numero 72 temi miniaturizzati, dico 72. Questi per te sono l'unica salvezza, perché se fai bene gli scritti, pure se agli orali fai scena muta, Martinelli te fa una pippa. Tu mica sei normale, eh? Ma il vero colpo di genio è questo. Adesivo sagomato contenente tutti i teoremi e le formule matematiche del mondo. Ma se non si legge niente? Vabbè, perché ora ci ho camminato. Ah, infatti noi gli esami ci andiamo volando. Quanto sei polemico. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberone in mano. Notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Anche la preparazione per gli esami diventa social e le lezioni, le ripetizioni private live, notate bene, quindi interattive, un dettaglio non da poco, sbarcano in rete. A lanciare il primo servizio del genere in Italia, la definizione è quella di live tutoring, è Doxity, il network di servizi didattici peer-to-peer e social per studenti di tutto il mondo. Nato a Torino nel 2010, Doxity consente agli studenti di scambiarsi appunti, documenti e consigli su corsi ed esami. Ad oggi conta oltre 1 milione di iscritti nel mondo, è disponibile in 8 lingue diverse ed ora con questo nuovo servizio c'è già chi lo vede come l'Uber delle lezioni private e speriamo che i professori, consentitemi la battuta, non scendano in piazza. Ci siamo fatti raccontare tutto dal fondatore di Doxity, Riccardo Ocleppo. Primo servizio di ripetizioni online in Italia, essenzialmente la classica ripetizione o lezione privata portata online. Questo significa che su doxity.com è possibile trovare già oggi oltre 75 tutor da noi certificati, quindi colloquiati e selezionati personalmente. È possibile contattarli in forma privata direttamente dal sito, accordarsi sulle modalità, sui contenuti e sulle tempistiche della lezione. Una volta accordatisi è possibile fare la lezione privata online all'interno di un'aula virtuale interattiva sulla quale si può ovviamente interagire con audio, con video, ma anche condividere file, interagire in modo interattivo su questi documenti e quindi un'esperienza d'apprendimento completa. I tutor, hai detto, li selezionate voi, ecco, in base a quali caratteristiche? Ma allora, innanzitutto le competenze. Nella maggior parte dei casi i ragazzi sono appena laureati di laurea specialistica, molto spesso con votazione di 110 lode, disponibilità, perché ovviamente chiediamo ai nostri tutor di avere una certa disponibilità settimanale e poi anche una buona capacità di spiegare. Come tutte le piattaforme cosiddette peer-to-peer, immagino che ci sia anche un sistema di feedback. Esattamente, sì. Dopo la lezione lo studente può ovviamente lasciare un feedback sul tutor e questo è ovviamente essenziale per chi poi arriva dopo di lui e per chi vorrà prenotare una lezione con lo stesso tutor dopo di lui, perché così ha modo di vedere cosa è successo e cosa ha fatto nelle precedenti lezioni. Quali sono i costi, Riccardo? Guarda, i costi si va da 15 ai 30 euro all'ora, che ovviamente sono prezzi molto competitivi. In realtà uno strumento di questo genere consente di risparmiare molti costi nascosti nelle ripetizioni fisiche classiche, ovvero il costo di spostamento, il tempo perso per muoversi da un luogo all'altro, la benzina, l'autobus, i biglietti. Sia i tutor sia gli studenti hanno la possibilità di pianificare le lezioni quando gli è più conveniente, quindi alle 8 del mattino, alle 10 di sera se si parla di studenti lavoratori, e essenzialmente non perdere tempo spostandosi. Online tutoring come il vostro servizio, ma poi anche piattaforme di social learning come possono essere in Italia Reduc e o il Project, ancora i vari MOOCs offerti dalle università, anche le più prestigiose. Come sta cambiando il modo di fare formazione l'offerta digitale? L'online è sempre di meno un, diciamo, visto come un modo per copiare o trovare delle scorciatoie, sempre di più invece visto come un modo per approfondire le conoscenze. Noi, oltre al tutoring, come dicevi all'inizio, su Doxity oggi è possibile trovare ad esempio più di 500.000 appunti condivisi da studenti per altri studenti, quindi una forma di conoscenza che fino a 5-6 anni fa non era accessibile, perché ognuno si teneva i propri appunti nel proprio computer. Quindi credo che il trend sia questo, sempre meno strumento scorciatoia e invece internet sempre più strumento per accedere in maniera democratica alla conoscenza. Potresti non usarlo a tavola? Lui lo fa. Papà lavora. Chi è la tua ragazza? Non pensavo che l'avrebbe mai fatto. È tutto nudo! Voglio sapere perché la mia carta non funziona. Hai chiamato per questo? Deve esserci un errore. Tutto quello che fate, lui può vederlo. Può fare quello che vuole col vostro computer. Può accendere la vostra telecamera, può osservarvi. Solo nuove opportunità e grandi scommesse. Con questa citazione cinematografica cambiamo argomento, giriamo in qualche modo la medaglia, per così dire. Il film era Disconnect, solo una delle tante pellicole sui rischi dell'iperconnessione. Sapete che si stima che oltre il 50% delle persone si addormenti con lo smartphone sul comodino e che il check-in habit, l'abitudine di controllare gli aggiornamenti di post e social network, sia il primo gesto che si fa al risveglio. Io purtroppo in questo caso mi autodenuncio subito. Altri dati: il 70% degli americani controlla il proprio telefonino, pensate, ogni 6 minuti, il 10% dichiara addirittura di averlo fatto durante il sesso. Ecco perché, insomma, oggi vogliamo parlare di una tendenza che sta emergendo in modo prepotente nel mondo dei consumi, moda o movimento che sia. Parliamo di digital detox, di disintossicazione digitale. Ne parliamo con Alessia Zampano, che è una ricercatrice, analista sui consumi. Per i nostri ascoltatori più affezionati, questo nome non è nuovo. Alessia era una delle nostre urban watcher in una delle rubriche che si sono succedute negli anni. Bentornata Alessia. Grazie. È un fenomeno, una tendenza dalle mille sfaccettature, Alessia. Si va dai locali tech free alle vacanze per disintossicarsi, e poi le app che favoriscono la disconnessione, le campagne che diffondono la consapevolezza sullo stress da iperconnessione, fino addirittura alle politiche urbanistiche delle città che prevedono delle vere e proprie quiet zone appunto nelle città. Da dove vogliamo iniziare? Beh, diciamo che oggi una delle principali paure contemporanee è ancora quella di rimanere senza connessione, senza batteria, quindi tagliati fuori. Gli americani nella loro solerzia hanno creato un acronimo apposito, il FOMO, che è la Fear of Missing Out, quindi la paura di rimanere fuori. È altrettanto vero però che anche la sensazione opposta, un poco alla volta, sta prendendo piede, cioè la gioia di essere tagliati fuori, quindi the joy of missing out, che ha generato l'acronimo JOMO. Quest'onda comincia ad essere cavalcata molto in ambito viaggio. oggi, e sono sempre di più infatti gli alberghi e i resort, in particolare quelli di lusso e molto esclusivi, che fanno dell'assenza di rete un valore aggiunto, quindi anziché una pecca o una mancanza. E questo ci dice anche che le persone cominciano a identificare il lusso anche con il tempo liberato dalla schiavitù dell'always on, cioè dell'essere sempre raggiungibili e dell'essere sempre connessi, sempre e comunque. Ecco perché anche la politica di disconnessione diventa anche una politica di sensibilizzazione inerente ai temi della sicurezza, ad esempio. In Romania è stata sviluppata un'app che si chiama Safe Drive, che incentiva le persone a non utilizzare lo smartphone durante la guida. È un funzionamento molto semplice ed è simile ad un'altra app che è stata sviluppata in Olanda e in particolare in questo caso proprio dal Ministero delle Infrastrutture per la sicurezza dei ciclisti. Allora, gli automobilisti e i ciclisti che si astengono dal usare lo smartphone durante il loro tragitto cominciano ad accumulare dei punti che poi possono scambiare con degli sconti per acquistare t-shirt, servizi, biglietti del cinema, eccetera. Questa svolta da FOMO a JOMO, come abbiamo detto, quindi dalla paura di rimanere disconnessi invece alla gioia dell'esserlo, viene cavalcata anche dai brand, perché capiscono che è un messaggio forte da dare ai propri consumatori, questa consapevolezza ragionata della disconnessione. Assolutamente, infatti sono molti brand anche di largo consumo come McDonald's e Coca-Cola ad esempio che realizzano campagne di comunicazione volte a sensibilizzare le persone a non usare lo smartphone, e lo fanno attraverso sistemi di gamification o di rewarding. Ad esempio BFF Timeout è un'app che McDonald's in partnership con Coca-Cola appunto ha sviluppato per lanciare un suo nuovo menu, attraverso la quale le persone possono gareggiare con gli amici a chi sta disconnesso per più lungo tempo. Aveva poi fatto parecchio clamore qualche anno fa, perché era, diciamo, una campagna molto ben riuscita, quella di KitKat, che sfruttando il suo celebre claim "spezza con KitKat" aveva proprio realizzato ad Amsterdam, in questo caso, delle aree no wifi all'interno della città, in cui le persone potevano parlare tranquillamente tra di loro, leggere, comunque non connettersi, perché in un raggio di 5 metri non arrivava nessun segnale telefonico. Anche i locali cittadini, i bar, iniziano a pubblicizzare questo servizio come servizio aggiuntivo, il fatto di essere tech free. Devo dire che su questo sono stati pionieri alcuni caffè di New York e degli Stati Uniti in generale, che in tempi non sospetti, già da parecchio tempo, quindi hanno cominciato ad adottare una politica anti-net. Il loro intento è un po' quello di rovesciare l'imperativo molto contemporaneo del wifi sempre e comunque a favore di un'esperienza che diventa sensorialmente e relazionalmente più appagante se non si è connessi. Alcuni locali offrono ad esempio degli sconti a chi deciderà di non usare il cellulare durante la permanenza, altri stanno sperimentando delle giornate no tech e altri ancora invece cominciano a spegnere il collegamento da una certa ora della sera in poi. Quindi dal free wifi al wifi free. Sembra un gioco di parole, ma in realtà è proprio così. Addirittura ci sono delle app che inibiscono sui nostri telefonini la connessione. Sì, è un po' paradossale che l'aiuto alla disconnessione arrivi dalla tecnologia. In realtà sono tantissime le app, ne citiamo giusto qualcuno: Moment per i dispositivi iOS o Break Free per i dispositivi Android, che non fanno altro che monitorare le nostre abitudini digitali e quindi ci avvertono attraverso una notifica quando i nostri comportamenti stanno arrivando alla soglia limite, e quindi ci danno degli strumenti per filtrare le telefonate, i messaggi e le notifiche, oppure per disconnetterci momentaneamente. Grazie Alessia Zampano per esserci venuta a trovare. Grazie a te. Argomento, parliamo di un tema molto caro in questo momento alle imprese italiane, il reshoring, il ritorno a casa, cioè della produzione. Si moltiplicano le aziende che dopo anni di delocalizzazione decidono di rimpatriare, spinte dall'aumento dei costi del lavoro in Asia e dalla ripresa in America e in Europa. Se ne è parlato qualche giorno fa al 7° Luxury Summit del Sole 24 Ore, durante il quale Sistema Moda Italia ha annunciato un progetto per per sostenere le aziende italiane nel processo di reshoring. Partner dell'operazione è la società di consulenza Pricewaterhouse, che al summit ha presentato i dati del secondo osservatorio sul reshoring in Italia. Questo è il momento ideale, è un problema di sostenibilità della produzione, ci ha detto Erika Andretta, l'ha intervistata Valeria Grandi. C'è una volontà di ritornare a portare parte delle produzioni, alcuni già hanno totalmente tutto prodotto in Italia, alcune fanno parte delle produzioni fuori, c'è la volontà di riportarle per poter rispondere più velocemente alla domanda di mercato. Ci sono ormai rischi paese, ci sono temi legati al costo dell'invenduto, al fatto di avere un time to market dilatato che non ti permette poi di andare a vendere sui negozi il prodotto, che non è più sostenibile. Quindi più si riportano in Italia le produzioni, più le nostre aziende avranno tutte un vantaggio competitivo più importante. Non c'è più il tempo di fare ricondizionamenti e lavorare sulla qualità di prodotti che non vanno bene, non c'è più il tempo di avere magazzini troppo alti, sono costi insostenibili. Ecco perché è giunto il momento, è un tema di sostenibilità. Ci sono prodotti che attraversano il tempo e abbattono i confini e i conflitti generazionali. Qual è il segreto del loro successo e su cosa punta oggi il marketing per trasformare il brand in un'icona trasversale, intergenerazionale? Ne parliamo tra pochissimo. Scopriremo ad esempio che l'ironia ha sostituito la trasgressione. Subito dopo la pausa, restate con noi. Essere e avere. I figli non devono conoscere gli sbagli che abbiamo commesso, devono conoscerci per come avremmo voluto essere e cercare di essere così. Non saranno mai all'altezza, ma meglio che non siano all'altezza dei finti noi che dei veri noi. Perciò non gli nascondiamo niente. È esattamente il contrario di quello che ho detto. Ok, non ti stavo ascoltando. Focus sui trend. Con Modern Family, la sitcom americana pluripremiata, giunta ormai alla sesta stagione, elogiata tra gli altri, pensate, anche da Barack Obama, introduciamo il tema del focus sui trend di questa settimana. Parliamo di consumi e brand intergenerazionali. Un tempo superare le barriere dell'età era molto più facile, oggi il panorama delle generazioni è molto più complesso, sono un po' saltate tutte le classificazioni di un tempo e il gioco per il marketing si è fatto molto più duro. Ne parliamo allora con un'esperta, Linda Gobbi di Future Concept Lab. Ciao Linda, bentrovata. Bentrovata a te Maria Luisa, a tutti voi. Che cosa è cambiato Linda? È così? Le regole sono saltate? È così, in particolare quello che è cambiato è il rapporto, la relazione tra le generazioni. Essere oggi intergenerazionali significa mettere in relazione tra loro età e quindi generazioni diverse, ma dove ognuna, giovani, bambini, adulti, nonni, mantiene una propria specificità. È un gioco alla pari dove ognuno esprime in qualche modo una propria competenza. Ricordiamo come negli anni 60 vi fosse un conflitto generazionale, una vera barriera tra genitori e figli, o come negli anni 90 poi abbiamo assistito viceversa a un giovanilismo rampante, madri e padri per abbigliamento, comportamenti si confondevano un po' con i figli. Ecco, oggi le logiche sono decisamente cambiate, modelli familiari assolutamente originali come in Modern Family, l'hai ricordato, sono tre generazioni che si confrontano ma con ognuna con una propria individualità che deriva da un modello esplorativo e non più prescrittivo dove ognuno ha una propria competenza, un proprio sapere. Una delle chiavi di successo, specialmente nelle campagne di comunicazione, è sicuramente l'ironia che si ritrova in molti dei casi di successo. Iniziamo a citarli. Sì, questo è davvero una chiave utile, soprattutto per far dialogare tra loro in questa modernità le diverse generazioni. E ad esempio una campagna che ci aiuta a comprendere questo, e ancora a proposito di conflitto generazionale, è una campagna di Hertz, la marca delle auto in affitto. C'è lascia un figlio, un giovane figlio, con un furgone davanti alla casa dei genitori, si appresta a lasciare il nido materno e paterno, il papà dice guida con prudenza, il figlio parte con il proprio furgone, mamma e papà entrano in casa e qual è la sorpresa? Che il figlio non è che si è portato via l'orsacchiotto di quando era ragazzo, ma si è portato via il forno a microonde, la lavatrice, il televisore, le marche a cui era affezionato, e i genitori hanno una grande sorpresa, molto ironico. Un'altra campagna interessante che in qualche modo sottolinea come i ruoli familiari siano anche cambiati, quando una marca si sostituisce a ruolo sociale in qualche modo dei genitori. Una campagna di Pizza Hut, la catena americana di pizze, che invita i giovani ragazzi a non abusare con i selfies. Pizza Hut, in modo assolutamente ironico, quasi una Ridolini, invita a soprattutto non usare l'asticella, non abusarne, ma mangiare una pizza finalmente dialogando con i propri amici e appoggiando il telefono per qualche momento. Un'altra delle chiavi che ritroviamo nei casi che mi hai anticipato, Linda, l'aggregazione per passioni, per così dire, uno dei ponti intergenerazionali che funzionano meglio. I brand sportivi, ad esempio, questo lo hanno capito. Da sempre lo sport, ne abbiamo parlato altre volte, è un aggregato di passioni, ma anche di talento che va affinato, ma anche di competenze che vanno sostenute. Adidas ha un programma molto interessante, già nel nome è My Coach, divento insegnante di me stesso grazie a degli strumenti e dei prodotti che Adidas ha messo sul mercato. Lo vediamo con My Coach Smart Ball, un pallone che ha un sensore integrato che fornisce tutte le informazioni necessarie sui tiri, dà un feedback immediato sulla rotazione del corpo, la direzione del tiro, la traiettoria, insomma qualsiasi età diventi un tiratore di calci, di rigore, di successo e di talento. In qualche modo la chiave per dialogare in modo intergenerazionale. Oggi un bambino a 6 anni inizia a giocare a golf, un tempo lo si faceva a 60 anni quando si era pensionati a Miami o in Costa Azzurra. Viceversa, il pianoforte si imparava in giovane età, oggi è esattamente l'opposto. Non c'è età, grazie alla tecnologia si può affinare competenze e talenti a qualsiasi età e quindi in ogni generazione hai un tuo ruolo da giocare alla pari. Competenze, ambiti e età, che siano baby boomers o millennials, insomma sono molto più fluidi di un tempo. Tra i casi simbolo anche quelli di brand legati all'infanzia, citiamoli e poi spieghiamo anche perché. Sì, questo è un altro fenomeno interessante a cui guardare per apprendere questa nuova logica intergenerazionale che non ha lo statuto della nostalgia come siamo stati abituati fino a qualche tempo fa, cioè riprendere prodotti di un tempo e immaginare che per tutte le generazioni abbiano quella allure nostalgica e di sogno positiva. Le marche dell'abbigliamento per l'infanzia, ne vediamo due in particolare. Una è una marca francese, Le Petit Bateau, è una marca storica, è stata fondata nel 1893 proprio per abbigliamento per i piccoli appena nati, ma già negli anni 70 del secolo scorso ha iniziato una bellissima collezione specifica per gli adulti, per le mamme, per i genitori. Oggi la marca Soclem dice per les enfants da 0 a 924 mesi, da 0 mesi a 924, non parla di anni ma parla di mesi, quei mesi sono 77 anni. Che cosa ha fatto la marca? Ha lavorato su un simbolo iconico che è la maglia a righe, bianche e blu, e su quel ricordo che non ha nulla di nostalgico ma ricorda una parte dell'infanzia che però ha permesso a ciascuno di noi di diventare l'adulto che è, cioè ad ogni età c'è una specificità che è esattamente un po' il contrario di quanto negli anni 80, 90, all'inizio del 2000 hanno fatto le marche di abbigliamento adattando collezioni per adulti ai più piccoli ma erano, come dire, dei quarantenni vestiti da bambino. Le marche dell'abbigliamento per l'infanzia hanno adottato una logica esattamente contraria. Chicco, una marca italiana, infatti accompagna la crescita adattiva con un programma che si chiama Grow Your Dreams, dove l'azienda affianca giovani, adulti di tutte le età, sostenendoli in un loro sogno dell'infanzia, che da impossibile diventa possibile: incidere un disco, diventare ballerina, uno sport, una passione, un talento, una vocazione. Abbiamo 30 secondi ormai per chiudere, Linda, con che cosa? Con un luogo, il Mercato Metropolitano, ricordando Expo Milano 2015, è un luogo in zona Naviglia, 15.000 metri quadri, tanti produttori di tipicità, ma è un luogo anche di cultura, tanta cultura per tutte le età. Nell'anfiteatro all'aperto, dove si tengono sicuramente seminari, alla sera si trasforma in un palco per eventi, teatro, musica, cinema, con un occhio di riguardo all'apprendimento ad ogni età di un tema così importante, che è quello della filiera alimentare e della sostenibilità, che non può essere prescrittivo, ma deve essere anch'esso esplorativo. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre a questo punto, per la nostra riflessione finale alla ricerca delle parole chiave del marketing e della comunicazione, il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben ritrovato, Francesco. Grazie Maria Luisa, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il tema di oggi. Il tema di oggi prende spunto da un bellissimo libro di Maurizio Ferraris che si chiama Mobilitazione Totale. Ferraris ci spiega in modo molto chiaro, peraltro, nonostante sia un filosofo, che noi per molti anni abbiamo considerato il web un canale di comunicazione. In realtà oggi è diventato qualcosa di molto più significativo, perché mobilita le persone, quindi le spinge ad agire e quindi modifica completamente la propria presenza nella nostra vita. Mi viene in mente un concetto molto caro, ad esempio, alla comunicazione sociale, call to action. Assolutamente, quindi in realtà il web sempre più spesso convoca. Convoca, e lo fanno anche le aziende, sia nell'ambito della creatività, quindi co-creazione, ma anche nell'ambito, direi, della mobilitazione civile, sociale, in cui le persone si sentono protagonisti e vogliono esserlo. In questo mi permetto di fare un esempio diretto, perché noi proprio in questi giorni abbiamo lanciato un open book legato alla crescita, al Festival della Crescita, e la risposta devo dire che è straordinaria. Questa svolta per le aziende che cosa significa? Significa modificare, ad esempio, tutte le regole e le logiche del marketing, ma anche il modo di lavorare. Faccio un esempio di un paese come il Giappone, che la mobilitazione totale la vive davvero da tanti anni, in particolare il mondo dei ragazzi. Un'azienda che si chiama LINE ha inventato gli stickers digitali, per cui icone che sono a metà tra le faccine che tutti conosciamo e il mondo tipico giapponese dei Pokémon. L'idea è però che poi i veri protagonisti siano i ragazzi, ecco, quindi le persone sono oggi pronte a dare il loro contributo, vogliono sentirsi protagonisti e le aziende lo devono capire. Ed è anche un ponte, da quello che mi dici, tra tradizione e innovazione. Questa è ormai diventata la regola di base di qualsiasi attività, direi commerciale, oltre che aziendale, perché anche qui abbiamo resistito, soprattutto noi in Italia, per molti anni pensando che la tecnologia e l'innovazione potesse erodere le nostre tradizioni culturali. Non è così, bisogna far incrociare questi mondi e lanciare davvero dei nuovi progetti di vita. Grazie Francesco, a domenica prossima. Grazie a te. E grazie anche in regia a Pietro Lacorte. Essere Avere finisce qui. Trovate questa e le altre puntate sulla pagina programmi del sito di Radio 24 oppure sulla nostra pagina Facebook, insieme a tutti i contributi aggiuntivi. A domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.